Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, raccogliamo il testimone da effetto giorno e inevitabilmente nello spazio del lunedì dedicato ai trasporti e alla logistica decliniamo a questo ambito l'emergenza coronavirus. Nella notte tra sabato e domenica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva lasciato margini di incertezza su quello che sarebbe accaduto per il transito e la consegna delle merci nella macro zona rossa, poi ieri in serata è arrivata una circolare esplicativa del capo della Protezione Civile Angelo Borelli che in qualche modo conferma l'operatività del comparto logistico affinché vengano garantiti gli approvvigionamenti per le famiglie, per il mondo produttivo. In rappresentanza un po' di tutte le associazioni di categoria, in linea con noi Enzo Solaro, segretario generale di Fedit. Fedit è la federazione dei Corrieri Espresso. Buongiorno Solaro. Buongiorno, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, cosa dice in concreto questa circolare? Guardi, questa circolare ha evitato un disastro annunciato, perché le prime evidenze che avevamo era di un blocco che avrebbe reso perlomeno complicata la circolazione delle merci. Questa nota esplicativa che abbiamo fortemente sollecitato al governo chiarisce che il blocco, una misura che per molti aspetti, insomma, nessuno contesta, è limitato alle sole persone fisiche, per cui le merci, le persone che trasportano le merci, le persone che devono spostarsi per ragioni di lavoro non avranno alcun tipo di limitazione o di vincolo. Questo a noi pareva scontato, pareva ovvio, ma la scrittura del DPCM qualche dubbio lo lasciava. Quindi, per essere molto chiari, autisti e mezzi possono entrare e uscire dalla zona rossa, anche se provengono, sono diretti in altre zone del nostro paese. Chiaramente gli autisti devono attenersi alle condotte di prudenza che valgono per tutti ormai da giorni. Assolutamente sì, e all'interno delle zone rosse, quindi la libertà della circolazione delle merci. C'è un problema che io credo debba essere risolto con urgenza, direi nella giornata di oggi, per quanto possibile, ed è che successivamente all'emanazione del decreto e poi della nota esplicativa le regioni hanno iniziato a deliberare, come dire, in maniera autonoma e introducendo elementi limitativi. È vero che poi la nota ha chiarito bene, insomma, che qualsiasi disposizione dovrà essere coerente con le regionale, voglio dire, deve essere coerente con le disposizioni nazionali, ma capisce che se una regione qualsiasi stabilisce che chiunque si rechi in una di queste zone classificate rosse, arancione o come, poi rientra nella regione in questione e di lì poi deve fare le due settimane di quarantena, viaggiamo due giorni e poi abbiamo gli autisti tutti quanti per mia casa per via di queste norme insensate, insomma, ferme restando, come correttamente ha detto lei, tutte le disposizioni di massima prudenza, però devono essere coerenti le disposizioni delle regioni con questa nota di chiarimento che assicura la circolazione libera, come è normale, delle merci. Questo paese deve sconfiggere prima, meglio che può, questa gravissima situazione sanitaria, ma non può mandare a carte 48 l'intero sistema produttivo nazionale, voglio dire, avremmo due sciagure anziché una soltanto. Ecco, per le aziende che Fedit rappresenta, ma più in generale per tutto il mondo dell'autotrasporto, queste due prime settimane di emergenza cosa hanno significato, cosa è successo? È successo un inizio di diminuzione del lavoro, per fortuna sino a qualche giorno fa contenuta, a cui le aziende hanno fatto fronte con la propria organizzazione. Ci preoccupa molto quello che potrebbe succedere, insomma, ci preoccupa molto perché questa drammatizzazione, temo, potrebbe accelerare la diminuzione che noi temevamo forte dei volumi entro le prossime due settimane, e se così fosse sarà un problema, come dire, di tenuta dell'intero sistema produttivo. Enzo Solaro, segretario generale di Fedit, grazie e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Per la logistica e l'autotrasporto all'emergenza sanitaria si somma l'atteggiamento dell'Austria, che ha annunciato l'inasprimento dei controlli alle frontiere con l'Italia. Al Brennero e a Tarvisio i controlli sanitari riguarderanno le persone e quindi anche le merci in transito. Secondo quanto disposto da Vienna, gli autotrasportatori provenienti dall'Italia, in particolare dalle zone rosse, devono presentare un certificato medico a garanzia che non sono stati affetti dal virus. A Campione viene anche rilevata la temperatura corporea. Questi controlli sono destinati a provocare code e rallentamenti e vanno ad aggiungersi alle limitazioni e ai divieti imposti dal Tirolo ai mezzi pesanti in transito al Brennero, restrizioni inasprite dal 1 gennaio con l'estensione dei divieti settoriali ad altre categorie di merci. È in linea con noi Antonello Fontanilli. Antonello Fontanilli è il direttore di Union Trasporti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi recentemente avete preso di nuovo posizione sulle limitazioni imposte dall'Austria alla nostra logistica e quindi al nostro export, partendo da un dato di fatto. Sostanzialmente smentite la tesi del Tirolo, secondo la quale i divieti riguardano tutti indiscriminatamente e quindi non favoriscono le imprese locali. Fontanilli. Abbiamo semplicemente fatto una nota che, soprattutto per i divieti settoriali e per i divieti dovuti alle classi euro, l'inquinamento, evidenziano invece il contrario, ovvero che queste eccezioni per origine e destinazione in Tirolo ci sono come, e si vede come appunto fino a fine anno potevano circolare anche gli Euro 4 se l'origine e destinazione delle merci erano in Tirolo, mentre appunto le merci provenienti di transito dovevano viaggiare solo su mezzi Euro 6. Di conseguenza appunto c'è questa distinzione e soprattutto di questa distinzione ne beneficiano le imprese tirolesi, sia quelle manifatturiere che possono chiaramente esportare e importare le merci senza particolari vincoli, e in automatico anche le imprese di trasporto tirolesi, che abbiamo saputo anche attraverso un'indagine che abbiamo fatto presso le imprese italiane, offrono i propri servizi alle imprese di produzione italiana, vantandosi anche dal fatto che loro non sono soggette a divieti. Ecco, parlava dell'indagine condotta tra gli autotrasportatori italiani. Ho letto che questa indagine ha coinvolto circa 500 imprese tra Bolzano e Modena. Ecco, cosa è emerso? Beh, in particolare abbiamo rilevato che il 46% delle aziende coinvolte appunto riferisce di un allungamento dei tempi di consegna a causa dei divieti tirolesi, il 32% nota anche un aumento di costo dei prodotti, il 22% una maggiore esposizione alla concorrenza di fornitori di altri paesi europei che non attraversano il Tirolo per raggiungere i propri clienti, e poi viene evidenziato il fatto che su certi collegamenti ci sono veramente poche alternative al passaggio dal Brennero, come anche il tema della Rola, che viene tanto sponsorizzato dal Tirolo. Ecco, la Rola, lo ricordiamo, è l'autostrada viaggiante via ferrovia. I TIR salgono sui treni e proseguono il viaggio, per intenderci, sui binari. Fontanilli. Esatto, l'autostrada viaggiante quindi accompagnata, quindi c'è l'autista e il mezzo completamente caricati sul treno, e viene vista come una soluzione non così percorribile per i costi, per il tempo perso, per il fatto che appunto con l'allungamento dei tempi c'è anche un impatto sociale, perché molto spesso gli autisti sono costretti a rimanere fuori il weekend senza rientrare appunto presso le loro famiglie, e tutti questi dati sono stati confermati anche da un'indagine fatta da un'associazione di trasporto bavarese. Antonello Fontanilli, direttore di Union Trasporti, grazie e buona giornata. Buona giornata a lei, arrivederci. Le barriere laterali di 3 viadotti della 16 Napoli-Canosa nel tratto Grotta Minarda-Vallata sono state poste sotto sequestro dopo un sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco. Il provvedimento precauzionale a salvaguardia della sicurezza degli utenti non comporta la chiusura del tratto interessato. Da fonti di ASPI si apprende che la direzione di tronco di Cassino sta studiando le soluzioni tecniche che consentiranno di garantire la viabilità in entrambi i sensi di marcia. Ora, in Liguria, divieto di sorpasso tra mezzi pesanti, distanze tra tir, interdizione ai transiti eccezionali. Sono alcune misure disposte dal Ministero dei Trasporti dopo i controlli nei giorni scorsi su 5 viadotti sulla 26 Genova-Gravellona e sulla 10 Genova-Ventimiglia. In particolare per il viadotto Gorsezio sulla 26 è stata disposta l'interdizione dei transiti eccezionali, il divieto di sorpasso, la distanza di 200 metri tra tir e la sostituzione delle barriere frangivento. Per i viadotti Buzero Nord e Sud, Balinara Nord, Sud e Sud Bis, tutti lungo la 26, è stato chiesto il ripristino degli elementi ammalorati e la sostituzione degli apparecchi di appoggio. Per il Ponticello ad Archi sulla 10, oltre alle misure già in corso, divieto di sorpasso e divieto per i trasporti eccezionali, è stata aggiunta la distanza di 50 metri tra tir. Infine, per il viadotto Madonna delle Grazie sulla 26, è stata disposta l'interdizione al traffico dei trasporti eccezionali e la riduzione della carreggiata in alcuni brevi tratti. Termina qui oggi hashtag autotrasporti. Con questo programma chiaramente ci risentiamo lunedì alle 13.45, ma vi ricordo l'appuntamento del sabato, Massimo De Donato in onda alle 13.15 con Container. Sapete, un approfondimento su questi temi. Ora di nuovo la linea al GR. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata. Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.